La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati a tutti, un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, l'appuntamento settimanale con il cinema di Radio 24. Questo weekend offre un altro piccolo passo di avvicinamento alla stagione natalizia, senza ancora dei particolari film a chiappa incassi per quanto concerne appunto il Natale, ma sembra ancora una settimana preparatoria dove si muove anche a livello di commedia americana qualcosa che non è esattamente un blockbuster, ma che potrebbe forse diventarlo, anche se l'attesa è chiaramente sulle uscite soprattutto della prossima settimana per quanto riguarda appunto i film di cassetta. A noi interessano invece i film belli e qualcosa in questo senso si muove anche questa settimana. Ne parleremo nel corso della Rosa Purpurea. Cominciamo subito a sentire quindi i nostri titoli di testa. Un film muto e in bianco e nero per raccontare una storia di ascesa e caduta di due star a cavallo dell'avvento del sonoro. È The Artist, il film che è valso a Jean Dujardin il premio per il migliore attore al Festival di Cannes. Essere bambini turchi in Germania negli anni 70, fra Natali da inventare e tradizioni da rispettare. In Almania, commedia campione d'incassi in patria, la storia dell'immigrazione turca fra risate e identità. Uno scapolone impenitente, uno sposato un po' troppo in pace coi sensi e il fatidico proposito. Mi piacerebbe essere come te. Dagli sceneggiatori di Una notte da leoni, Cambio vita, commedia delle vite altrui con Jason Bateman e Ryan Reynolds. Paul Giamatti, protagonista di Mosse vincenti. Ancora una volta l'uomo e le sue ansie fra amici, famiglia e gli anni che passano, finché nella vita non irrompe qualcosa che obbliga a reinventarsi. La musica ci racconta di un mondo cinematografico del passato, molto molto vicina all'epoca del muto, in effetti di un film muto che vogliamo parlarvi qui all'inizio della Rosa Purpurea, The Artist, il film che anche tra l'altro ha avuto ottime critiche e recensioni al Festival di Cannes nello scorso mese di maggio e che arriva nei cinema italiani. La storia è quella dell'ascesa e della caduta di due star, una del cinema muto che non riesce ad adeguarsi al cinema sonoro e una che pian pianino entra proprio al momento in cui c'è il passaggio al sonoro e diventa una grande stella del cinema. George Valentin è una star appunto del cinema muto di Hollywood che miete successi e tende a lasciare sempre nell'ombra i suoi partner sul palco e fuori come le vere star, un po' pieno di sé, cammina un metro dal suolo. Nel 28, anno fatidico, incontra una fan, Peppi Miller, bella e spregiudicata, se ne invaghisce e la fa debuttare in piccoli ruoli di contorno. La ragazza piace e nel 29, all'avvento del sonoro, il produttore, interpretato da John Goodman, dà sempre più spazio a Peppi mentre chiama George Valentin e gli dice che il suo tempo è finito, che il sonoro è il futuro e che gli spettatori hanno bisogno di facce nuove. In pratica lo licenzia. George reagisce orgogliosamente, investendo tutti i suoi ricavi nella produzione dell'ennesimo film muto d'avventura, che sarà un flop colossale, mentre al cinema di fianco la gente fa la fila per vedere e sentire, soprattutto, la bella Peppi Miller, la quale non si è mai dimenticata di lui e, ricambiando in fondo un sentimento, lo aiuta di nascosto a venire fuori dalle secche di una depressione che trascina sempre più giù la star in caduta libera. Vagamente ispirato alla storia di John Gilbert e Greta Garbo, il film è anche un omaggio alle pellicole mute di Charlie Chaplin uscite in epoca sonora, come Luci della città e Tempi moderni. La villa dove abita Peppi Miller, piccola curiosità, nel film è la stessa in cui abitava veramente la star del muto Mary Pickford. Sono andati veramente a livello produttivo in fondo i produttori di questo film. Diretto da Michel Hazanavicius, dovrebbe essere questa la pronuncia giusta vista la nazionalità francese del regista, interpretato da Jean Dujardin, vincitore del premio al Festival di Cannes per il miglior attore. Insieme a lui c'è la bellissima Bérénice Bejo. I punti positivi del film: l'uso del sonoro, ecco, proprio in un film muto la cosa più bella a mio modo di vedere è proprio l'uso del sonoro, non solo con le musiche di sostegno come si usava una volta con l'orchestra dal vivo, ma gli unici momenti sonori del film sono quelli di un incubo del protagonista che all'avvento del sonoro sogna che gli oggetti abbiano un rumore, addirittura che il cane possa abbaiare in un film. Ma quando si sveglia di soprassalto nota che appunto era solo un incubo, e poi nel finale lui, che aveva metabolizzato l'avvento della parola al cinema da non riuscire più a parlare nella vita, ritrova l'eloquio, ma lo fa come un bambino che ha appena iniziato a parlare sbagliando le sillabe, dicendo parole strane. Quindi un rapporto fra il film muto e la modernità dei suoni, creativo e funzionale. Dicevamo, la recitazione di Jean Dujardin, interessante traiettoria per questo comico 39enne venuto fuori dai talent show e dagli Zelig d'Oltralpe, poi impostosi al cinema nel 2002 con una commedia che si chiamava Ah, se fossi ricco, seguita poi da un paio di buoni successi, forse ricorderete un film che si intitolava Cash. Ora, in The Artist, Dujardin, premiato a Cannes appunto, dicevamo, per la sua interpretazione, mostra un allure, un carisma veramente degno di un divo del muto. Fisicità, sguardo malinconico, sorriso lo avvicinano davvero a divi come Errol Flynn o Claire Gable, e poi la presenza di Bérénice Bejo, che tra l'altro è la moglie del regista nella vita, bella, profonda e intensa, da seguire e vedere alle prese magari anche con il cinema parlato. Quali sono invece i punti poco convincenti del film? Sostanzialmente una certa inutilità generale dell'operazione. Cioè, cosa voleva dimostrarci il regista Michel Hazanavicius? Che è possibile fare un film muto uguale a quelli dell'epoca muta nel 2011? Certo che è possibile, con i mezzi che ci sono è possibile tutto. E allora sottolineiamo il perfezionismo dell'immagine a passo leggermente velocizzato, col formato quadrato tipico dei film muti, con le sfumature di grigio che tinteggiano più dei colori, una grande fotografia, tutto perfetto, forse anche troppo, dice qualcuno, ma alla fine la fatidica domanda è: e chi se ne frega? Dietro questa domanda un po' provocatoria ci sta un po' quello che gira attorno a un film, quello che è il nostro approccio con un film. Una storia originale? No, perché la storia è il compendio di tante storie del cinema delle origini, c'è un po' di Viale del Tramonto, un po' di Quarto Potere, un po' di È nata una stella, ma è un film che in fondo ci lascia un po' indifferenti. Leggo da qualche parte un film che nasce da un'urgenza. Quale? Dov'è la necessità di questa operazione? Proprio in questa mancata capacità di dare allo spettatore una lettura contemporanea, un gancio cui attaccarsi, pecca un film che diventa così mero esercizio di stile, che potrebbe anche piacere però agli americani, visto che se ne parla anche come candidato francese agli Oscar. La rosa purpurea. I suoni reinterpretanti il classico ma anche un po' distorti, come in un incubo, arrivano dalla colonna sonora di Enter the Void, il film con cui vogliamo cominciare questa seconda parte della Rosa Purpurea, il film firmato da Gaspar Noé, regista di nascita argentina ma di adozione cinematografica francese, regista che si era fatto notare, diciamo così, per il film di qualche anno fa che si intitolava Irreversibile, lo ricorderete, era il 2002, sono passati ormai ben 9 anni, nel cui c'era il famoso stupro di Monica Bellucci, se ne parlò tantissimo all'epoca e devo dire poco più in quel film. E allora Gaspar Noé torna sulle sue corde, che sono quelle di raccontare sostanzialmente ambienti molto promiscui con un certo godimento voyeuristico, senza però forse riuscire a costruire attorno una storia. Qui stiamo questa volta da due fratelli, un fratello e una sorella, che abitano da poco tempo da Tokyo, lui piccolo spacciatore di droga, lei spogliarellista in un nightclub, retata di polizia, Oscar che viene ferito e mentre agonizza il suo spirito si rifiuta di lasciare il mondo dei vivi e comincia a vagare attraverso la città. Se c'è una cosa bella è sicuramente l'impianto fotografico, cioè l'uso dei colori, l'uso della post-produzione che ci fa un po' stare dentro una sorta di grande scenario da videogioco, se vogliamo. Se c'è una cosa bella, dicevo, è questa, perché per il resto sono orge una dietro l'altra. Il film immagino sia ampiamente vietato ai minori, perché se ne vedono di tutti i colori o dei soliti colori. È con noi Boris Sollazzo, al quale chiedo di confutare la tesi o di approvarla. Gaspar Noé mi sembra un po' un regista onanistico per critici un po' frustrati, adesso non dico così, però sono quei film che non passerebbero il visto censura da nessuna parte, ma che siccome passano dal Festival di Cannes, prendono il premio in qualche festival di provincia, poi a un certo punto diventano un cult. Però sotto il vestito o sotto l'amplesso niente, potremmo dire. Assolutamente d'accordo, lo chiamerei Onan il Barbaro probabilmente, perché io ricordo solo una cosa devo dire, di questo film, che quando passò a Cannes io ero in sala e dopo le 3 ore passa di film ho iniziato a urlare: ditemi cosa volete sapere, confesso tutto, perché l'avevo vissuta come una tortura o come un incubo, come hai detto tu stesso. E il film è la più incredibile e pretenziosa operazione cinematografica che ho visto negli ultimi anni, precisamente da Irreversibile in poi. E si può, come dici tu, forse salvare la fotografia, si può salvare in qualche modo qualche momento dell'interpretazione, soprattutto femminile, ma è davvero pochissima cosa in confronto a quello che vuole essere, tra l'altro, neanche una particolarmente originale impostazione cinematografica e fotografica, perché c'è la solita soggettiva dalla nuca di Noè, e c'è questa, diciamo, soggettiva invece spettrale, dello spettro, del fantasma, che è più dall'alto. Si capisce subito che tipo di film è dai titoli di testa, che sono dei titoli di testa montati in maniera sincopata, quasi fastidiosa per la salute dei propri occhi, e quello dovrebbe avvertire chiunque abbia la malaugurata idea di andarlo a vedere, che non è cosa sana né bella vedere Enter the Void. Insomma, direi che l'abbiamo sistemato. Allora, a questo punto, Boris, stai con noi, perché fra poco c'è una coppia di commedie americane di cui voglio parlare, le teniamo insieme. Allora, cominciamo adesso a giocare, cominciamo adesso ad aprire le prime finestre sul nostro DVD game. Oggi giochiamo in DVD, giochiamo con il cinema italiano, e quindi state molto attenti, perché è un autore che si è molto affermato, davvero molto affermato negli ultimi anni, partendo da un successo piccolo piccolo che è diventato molto grande. Allora, cominciamo a sentire la prima traccia del DVD game di oggi. Ti pene Duc. Possibile che non senta brisa scadare in la testa? Qua bisogna usare zero. Ma no, prova il petrolio. Così non so, prisniesta un metar? Ma che petrolio è petrolio? Che costa? Sembra serbo, invece non è serbo, è un dialetto italiano. La rosa purpurea chiocciola radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per provare a indovinare di che film si tratta, di che autore si tratta, e scrivercelo con il vostro indirizzo per vincere un bellissimo cofanetto dedicato proprio a questo autore. Più tardi ci saranno un altro paio di possibilità. Allora, dicevamo, commedie americane, ne arrivano un paio piuttosto interessanti, almeno nelle premesse, in questo fine settimana. Cominciamo con Cambio Vita, The Change Up, il titolo originale, protagonisti Ryan Reynolds e Jason Bateman nei panni di due amici, uno Ryan Reynolds, scapolone impenitente, l'altro Jason Bateman, papà di famiglia, ormai frustrato anche nelle sue ambizioni sessuali da bambini, pannolini, stanchezza e routine. I due a un certo punto si trovano insieme e passano una serata piuttosto gagliarda. Raccontami delle tue donne. Esco con un numero consistente di belle ragazze. Lei chi è? Lei è Tatiana. Wow. Prima devo farla piangere, ma ne vale la pena. Ed ecco Brenda. Lei fa la carriola, l'occhiale arabo, l'arsegno hall, il club sandwich. Non conosco neanche una posizione. Sei sposato? Appunto. Tu vivi un sogno, Mitch. Avere dei figli è come vivere con dei mini tossicodipendenti, sai? Ridono e un attimo dopo piangono e vogliono suicidarsi nella tua vasca da bagno senza ragione. No, dicevo solo che invidio la tua vita, Mitch. Io invidio la tua. Vorrei avere io la tua vita. Il rumore d'acqua era lo scorrere della pipì nella fontana. I due sono piuttosto ubriachi e finiscono la serata facendo pipì, come fanno gli uomini spesso in compagnia, nella fontana. Il loro desiderio, vorrei avere la tua vita, io vorrei avere la tua, almeno per un po', si avvera grazie a questo fulmine, ed ecco cosa succede. Per la prima volta in vita tua sei figo, sei single. Quello che ci è successo è assurdo, ma sarebbe ancora più assurdo non sfruttarlo. Ci conosciamo. Voi due dovreste uscire insieme. Aspetta, che? Ti piace lavorare con Dave? Veramente, una volta ero pazza di Dave. No, non è vero. Ma lui è sposato, perciò è ovvio. Certo, è ovvio, ovvio, ovvissimo. Sì. Quello che succede è che loro cambiano sì vita, ma rimangono nei propri corpi, e quindi mogli, mariti, fidanzati riconoscono visivamente la stessa persona, ma con il carattere dell'altro, dell'amico. Boris, niente di nuovo sul fronte occidentale, potremmo dire, però si ride. No, assolutamente nulla di nuovo, da Big Nei panni di una bionda, a Tale padre tale figlio, insomma, ne abbiamo avuti molti di queste trovate, una trovata di sceneggiatura molto semplice, il cambio di corpo, credo che ne potremmo trovare a decine. Detto questo, è una commedia in cui si ride per merito soprattutto degli attori. Reynolds e Bateman hanno una buona alchimia, per merito di alcune battute geniali. Sto ancora cercando di capire cosa sia l'occhiale arabo. E la definizione dei figli come figli tossicodipendenti è assolutamente geniale, quindi alla fine della fiera il film mantiene quello che promette. Quando tu vai a vedere un film che si chiama Cambio Vita, ci sono due uomini che nel trailer vogliono essere l'uno nel corpo dell'altro, o almeno l'uno nella vita dell'altro, sai già cosa aspettarti. La cosa bella qua è che poi alla fine si ride, ci si diverte e quindi si ha quel che si vuole, il che non è poco in questo periodo del cinema. E questo per quanto riguarda allora Cambio Vita. Qualche ambizione in più anche a livello narrativo, di tessuto, c'è in Mosse Vincenti, Win-Win è il titolo originale, e che intanto annovera nel cast un attore che mi fa impazzire come Paul Giamatti, e poi cerca forse di lavorare un po' più sul punto della situazione di un uomo, diciamo così, fra i 45 e i 50 e del suo iniziale bilancio di una vita rispetto anche alle sue ambizioni. Il protagonista, appunto, Mike Flaherty, avvocato senza troppi successi, che si realizza cercando di fare anche l'allenatore di una squadra di lotta di un liceo newyorkese, viene però a un certo punto nominato tutore legale di un suo anziano cliente. Andiamo a sentire una clip. Dov'è papà? Sta correndo. Da cosa scappa? Cos'è che ti agita tanto? Qualunque cosa. La famiglia, il lavoro. Perché tuo figlio ha rapito la gatta? Perché è geloso di lei. Tremendamente geloso. La mia squadra è senza speranza. E io non riesco a respirare. Il dottore ha detto che dipende dallo stress. Ti ha prescritto niente per curarlo? Sì, andare a correre. È bellissima questa battuta, perché fa venire in mente un pezzo apparso recentemente sulla stampa italiana in cui si diceva appunto che i cinquantenni a un certo punto cominciano a correre, cioè per chissà scappare da cosa, come diceva il bambino all'inizio. Ebbene, nella vita un po' incasinata di Mike Flaherty arriva a un certo punto Kyle, ed è una presenza che mette in subbuglio tutta la sua esistenza. Chi è quello? Perché cerchi il signor Poplar? Perché è mio nonno. Lui non vive più qui. Tua madre sa che sei scappato di casa? A lei non importa niente di me. È una tossica, non glielo rimando a casa. Kyle si allenerà per un po' con la nostra squadra. Hai mai combattuto finora? Un pochino. Abbiamo poco da insegnargli. Boris, allora, Mosse Vincenti è arrivato un po' alla chetichella. Forse l'arrivo di un film di Paul Giamatti meriterebbe un po' più di spazio anche nella comunicazione, ma sappiamo ormai la comunicazione sul cinema è una cosa che meriterebbe una o più puntate a parte. Vale la pena con questo film? Vale assolutamente la pena. Tra l'altro, il mistero della comunicazione sta nel fatto che, come capita a volte, Giamatti ha ben due film in questo dicembre, quindi potrebbe essere ampiamente sfruttato, visto che sta anche ed è bravissimo nelle Idi di marzo. E questo Mosse Vincenti, che è passato anche a Torino, è veramente un piccolo gioiello. Per intenderci, facendo veramente un paragone anche un po' irriguardoso, è una sorta di scialla all'americana. C'è un padre e un figlio, anche se non sono legati, o almeno non sanno di esserlo, inshallah qui non lo sono affatto, non sono legati da un legame di sangue, si ritrovano per età, per generazione, per necessità l'uno dell'altro di trovare qualcosa al di là del lavoro, al di là della difficoltà familiare che vive il ragazzo, si ritrovano e iniziano un percorso insieme, un percorso abbastanza improbabile, segnato da questo allenamento alla lotta libera, e ne nasce un film molto divertente, in alcuni momenti esilarante, ma anche molto commovente. Se vogliamo dare un'etichetta di quelle antipatiche, è proprio una commedia in stile Sundance, ben diretta, ben recitata, molto ben recitata. Giamatti continua a non sbagliare un colpo, almeno per quanto mi riguarda, trovo che sia davvero straordinario ed eclettico, e ci regala un piccolo gioiellino che mi dispiace molto sia passato sotto silenzio sia al Festival di Torino sia adesso all'arrivo in sala, e quindi speriamo noi di poter sanare questa ingiustizia. Noi ci abbiamo provato, lo consigliamo al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori. Andate a vedere Mosse Vincenti con Paul Giamatti. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, ciao Franco. La rosa purpurea. Più restava lontana dalla sua terra, più forte si faceva l'influenza tedesca. Per favore. Per favore. Per favore. Quindi devo entrare e poi suono la campanella? I regali. Prima devi mettere i regali sotto l'albero e poi suoni la campanella. Ok. Il nostro primo Natale! Ce l'abbiamo fatta! No, i regali! Non dovevamo vederli in anticipo! E non hai fatto i pacchetti! Allora tenete gli occhi chiusi, per favore. L'atmosfera natalizia, ma anche una certa impreparazione di fondo ad affrontare il momento fatidico dei regali. E questo, una clip che vi abbiamo voluto fare ascoltare, tratta da Almania, sottotitolo La mia famiglia va in Germania. È un film tedesco di produzione, ma turco di natura proprio, a partire dalla regista Yasemin Sandereli, che insieme alla sorella minore Nesrin Sandereli ha scritto la sceneggiatura. Ma un film tedesco, come dicevo, di produzione, che tra l'altro in Germania ha fatto un botto clamoroso, 11 milioni di euro di incasso, è stato un grandissimo successo. Perché? Perché racconta con un punto di vista originale rispetto a tanto cinema turco-tedesco, pensate ai film di Fatih Akin, tanto per dirne una, racconta cosa vuol dire essere tedeschi ma essersi sentiti anche turchi, aver avuto magari negli anni 70 da bambini il problema, ma un problema vissuto anche con tanta leggerezza, dell'integrazione. È un film che assolutamente in salsa di commedia è rivolto e ha l'occhio di chi oggi ha 40 anni e guarda con un sorriso sulle labbra quei momenti, per esempio quando si arrivava dalla Turchia negli anni 70 bambini, ci si doveva integrare all'interno di una Germania molto sviluppata, ordinata, organizzata e anche tutto sommato abbastanza accogliente rispetto a quelli che sono gli stilemi con cui viene descritta. Ebbene, ci si doveva un po' introdurre in un mondo che era talmente diverso da quello che si era visto in mezzo a alture, villaggi, pastori, campagne della Turchia, della nativa Turchia, che era un po' un problema fare. Ma in realtà c'erano tante attrattive, tanti momenti che tenevano questi bambini con gli occhi sull'Occidente, come per esempio il momento del Natale dei regali. Avete sentito la clip, il tentativo dei bambini di insegnare alla madre come si fa a consegnare i regali appunto la notte di Natale, rito totalmente pagano per loro che appunto arrivavano dalla Turchia. E fra le cose strane che si vedevano con gli occhi dei bambini dal finestrino dell'auto in quella Germania c'erano dei cani molto lunghi che noi conosciamo come bassotti, ma che quei bambini non conoscevano davvero. Quello non è un topo, figlio di un asino. È un cane. Perché gli hanno tagliato le zampe? E perché lo tengono attaccato a una corda? I tedeschi portano a passeggio i cani e li tengono attaccati a una corda. Portano i cani a passeggio? Sì. Non ci possono andare da soli. A volte dormono anche a letto coi padroni. A letto insieme uomini e bestie? Sì. Allah onnipotente proteggici. E avete sentito i cani a guinzaglio in giro a spasso per le città. La protagonista del film è la famiglia Yılmaz, appunto l'inizio del film è oggi con questo patriarca di questa famiglia, ormai da 40 anni in Germania, giunta alla terza generazione, che dopo una vita di sacrifici è riuscito a comprarsi una casetta, in realtà è un rudere del tutto crollato, in Turchia, in quel paesino delle proprie origini. E allora riesce a convincere con tanta fatica tutta la famiglia, compresi i fidanzati delle nipoti, cugini, eccetera, a riunirsi e a partire insieme su un pullman per la Turchia, per andare a vedere questa casa che è stata acquistata. Come dicevo, tanta fatica nel mettere insieme tutto, c'è la ragazza che è incinta e non lo fa sapere agli altri, ci sono tanti motivi per cui non partire, perché ormai questi ragazzi, soprattutto quelli ormai di 30 anni, sono tedeschi a tutto tondo e non vedono il motivo per andare a fare questa rimpatriata di famiglia. Ma una volta che capiscono il perché, che si adeguano, partono e diventa un road movie nello spazio verso la Turchia, è un road movie nel tempo, tornando indietro proprio a quegli anni della grande emigrazione, dove si sognava di andare in Germania anche per una bottiglia di Coca-Cola. Lo sai che in Germania puoi trovare la Coca-Cola dappertutto? Dici davvero? Sì, è pieno di Coca-Cola. Quando arrivi me ne mandi un po', per favore. Sarà difficile. Come difficile? Come faccio a mettere una Coca-Cola in una busta e spedirtela per posta? Sono contento che noi non ci dobbiamo venire. Perché? Sono tutti miscredenti in Germania. Mio fratello dice che i tedeschi mangiano carne di maiale e anche umana. Il loro simbolo è un uomo morto su una croce. E hanno mangiato anche lui. Applauditissimo all'ultimo Festival di Berlino, il film segna l'esordio nel cinema delle giovani sorelle, come dicevamo, Yasemin e Nesrin Samdereli, che hanno voluto raccontare appunto in forma di commedia i loro ricordi di ragazze tedesche di origine turca. Un film che sì, qui nasce da un'urgenza, da un'esigenza, quella di raccontare appunto un'integrazione che non è che abbia richiesto poi grandissimi sacrifici, soprattutto per i figli degli emigrati. Pensate, in Germania ci sono 1.700.000 turchi su 80 milioni di abitanti, è una componente importantissima della società tedesca. E appunto lo ha detto la regista, c'è chi crede che noi abbiamo dovuto fare cose clamorose. Noi per integrarci andavamo alla scuola cattolica, passando i mercoledì a cantare inni di chiesa, una e l'altra invece a suonare il flauto nella banda. Ecco, non è che poi ci fosse tutta questa diversità. I ragazzi, i bambini, si sa, fanno alla svelta a capire dove va il fumo e a cercare anche di integrarsi. Ma come dicevo, la cosa particolare di questo film è questo occhio che ci racconta la seconda, la terza generazione alle prese con il suo arrivo in Germania. Un film che magari denuncia ancora qualche piccolo tentennamento nella regia, forse qualche lungaggine di troppo, qualche momento anche eccessivamente prolisso, se vogliamo, ma un film molto godibile dall'inizio alla fine, nei momenti più commoventi e nei momenti più esilaranti. Un film che tutto sommato si inserisce dentro il filone della commedia dell'integrazione, anche quella interna ha avuto da noi un grandissimo successo, se volete. Fa ridere parlare di integrazione in Italia, però tra italiani almeno, ma pensate a Benvenuti al Sud, per esempio, no? Cioè ai diversi che si incontrano e che devono comunque mettere insieme tradizioni e identità che non sono sempre le stesse, ma che molto spesso possono amalgamarsi. E allora questo era Almania nei cinema italiani, un film appunto turco-tedesco, come abbiamo detto, distribuito da questo fine settimana in una dozzina di sale in tutta Italia. Poi potranno diventare qualcuna in più, chiaramente sotto Natale, come dicevamo, c'è sempre qualche problema. Il film di cui abbiamo parlato prima, Mosse vincenti, con Paul Giamatti, tra l'altro regia, non l'abbiamo detto prima per inciso, di Tom McCarthy, il regista del clamoroso, strepitoso L'ospite inatteso con Richard Jenkins di qualche anno fa, esce in 8 sale. Ecco, chiaramente la distribuzione in questo momento fa fatica, fra blockbuster, vampiri, Woody Allen che va alla grande e Dio l'abbia in gloria, sicuramente ci sono problemi a trovare spazio, ma molto dipende poi dagli spettatori, perché se le medie per sala di quelle pellicole vanno forte, chiaramente altri esercenti si aggiungono. Ho citato Woody Allen non a caso, perché è arrivato il momento di dare un'occhiata a quel che è successo al box office la scorsa settimana, perché Midnight in Paris, di cui abbiamo diffusamente parlato qui alla Rosa Purpurea 7 giorni fa, è primo in classifica. E questo è una cosa che a Woody Allen, a mia memoria, non accadeva da un po' di tempo in Italia. L'avevamo detto, il film era andato fortissimo in America rispetto alle abitudini di Woody Allen, incassando 60 milioni di dollari, però non mi aspettavo sinceramente che partisse con oltre 2 milioni nel primo weekend in Italia, primo posto di gran lunga rispetto al giorno in più di Massimo Venier con Fabio Volo, che era un film molto atteso per i tanti appassionati appunto del libro e dell'attore Fabio Volo. Terzo posto, Anche se amore non si vede, di Ficarra e Piccone, anche loro in buona posizione, quindi cinema italiano secondo e terzo. Scende al quarto posto, direi cade al quarto posto, la saga di Twilight con Breaking Don parte 1, ma lì si sa, vanno tutti al cinema il primo giorno, possibilmente la prima ora, al primo spettacolo, e poi chiaramente c'è uno sgonfiamento piuttosto evidente. Comunque il film è portato a casa quasi 15 milioni nel suo complesso, quindi non arriverà a 20, che forse era l'ambizioso traguardo dei distributori, ma insomma siamo comunque in un'ottima situazione. Poi via via tutti gli altri: Real Steel, Happy Feet, Il mistero di Rookford al settimo posto, ne abbiamo parlato anche in questo caso 7 giorni fa, eccetera eccetera. Però ecco, quello che è molto molto importante è questo primo posto di Midnight in Paris, 2 milioni e 2 il primo weekend. C'è stata di mezzo tutta questa settimana, c'è il nuovo fine settimana, il passo parola è assolutamente positivo. Siamo convinti che lunedì prossimo lo ritroveremo ancora in posizioni molto molto anche alte, anche perché quello che è uscito questa settimana tutto sommato non mi sembra poter insidiare più di tanto le primissime posizioni della classifica. Fine dell'excursus sul box office, giochiamo ancora insieme, c'è la seconda traccia della DVD Game di oggi. La mia famiglia sono contadini. Sono in pochi, ma adesso arriva un nuovo fratellino. Lavorano la terra per un signore che ha un bellissimo cavallo. Ma mio padre dice che prende sempre troppo dal raccolto e che è un padrone. E allora, la rosa purpurea @radio24.it, questa volta ci esprimiamo in italiano, avete sentito questa bambina, è un film veramente molto bello, uscito un paio d'anni fa al cinema, c'è un cofanetto in palio con l'opera del suo autore, scriveteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, più tardi, l'ultima possibilità. E la rosa purpurea prosegue con un ospite che è già in collegamento con noi e che salutiamo. Si tratta di Bartolomeo Corsini, direttore della sezione lombarda del Centro Sperimentale di Cinematografia, che saluto. Buongiorno Corsini. Buongiorno a voi. Stanno per partire alcuni corsi che hanno tra l'altro, diciamo, docenti fra virgolette di grande rango, ed è proprio il momento questo di avanzare le domande, quindi chi aspirasse a fare l'attore, a fare lo sceneggiatore, magari anche a fare il critico, anche se quello magari è un mestiere che si impara anche più sulla strada in un certo senso, beh, insomma, può contare sui nuovi corsi del CSC di Milano. Allora, recitazione a cura di Giancarlo Giannini, invenzione delle storie Franco Bernini, famoso anche lui come sceneggiatore, e critica cinematografica Pino Farinotti. Sono tutti e tre laboratori avanzati che durano 6 mesi e che sono stati ideati proprio per rispondere all'esigenza di maggiore qualità nel cinema, nel campo della cinema, della recitazione, perché Milano è molto presente con la recitazione teatrale ma non con quella cinematografica. I docenti sono tra i migliori che abbiamo al mondo, arrivano da tutte le parti del mondo, dalla Cina, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, ed è un corso intensivo. Per accedere a questo corso bisogna fare una domanda entro il 16 di dicembre. Poi ci sarà un breve, come dire, casting fatto da Giancarlo Giannini e alla fine si comporrà la classe, che saranno 20 futuri attori del cinema italiano. Così pure anche per quanto riguarda l'invenzione delle storie, che si è capito che molti sono gli sceneggiatori molto bravi anche a realizzare delle sceneggiature sicuramente a livello, ma quello che manca, quello che è sentita come esigenza, è quello dell'inventore proprio delle storie. Quali sono i costi da sostenere? Allora, i costi da sostenere sono per il laboratorio di recitazione e il laboratorio di invenzione delle storie di 5.000 euro per i 6 mesi di corso. Per quanto riguarda il corso di critica cinematografica è 2.500 euro per i 6 mesi di corso. La rosa purpurea. Quarta parte della rosa purpurea, ancora insieme. Siamo arrivati al momento delle segnalazioni per il palinsesto della prossima settimana, televisivo, per i film da vedere in chiaro con il digitale terrestre, con il satellite, ma insomma, come sempre, grande cinema gratuito in casa. E lo facciamo insieme agli amici del settimanale Film TV. Saluto Claudio Bartolini che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24 dalla redazione di Film TV. Allora, cominciamo con la prima segnalazione. È stata la notizia forse della settimana, quella dell'arresto del boss Zagaria, della Camorra, clan dei Casalesi, a quella storia, a quella incredibile presenza all'interno di tante aree del napoletano era dedicato il film Gomorra di Matteo Garrone, che ha avuto tanto successo, ha avuto tanto successo di critica, di pubblico, e che adesso arriva anche in televisione. Rai Movie, 21.05 venerdì, Gomorra. Cinema di denuncia in forma gangster, dal testo ormai bestseller di Roberto Saviano, Gomorra è un film che ormai non ha bisogno di presentazioni, in quanto è diventato più che altro un caso e letterario e in seguito cinematografico, infine sociale, al punto di vedersi riconosciuto addirittura un premio in quel di Cannes. Il sabato successivo, ma ve ne parliamo questa settimana, anche se mancano 7 giorni per potervi organizzare, nella notte ci sarà un grande omaggio di Fuori Orario su Rai 3 per il grande Vittorio De Seta, regista e sceneggiatore, il padre potremmo dire del documentarismo moderno italiano, che è scomparso proprio pochi giorni fa all'età di 88 anni. Ebbene, a Vittorio De Seta sarà dedicata una lunga maratona notturna nella notte fra sabato e domenica prossimi per appunto celebrare il grande cinema documentario. Si tratta dei film Banditi a Orgosolo, girato in Sardegna, Hong Kong città di profughi e in Calabria. In particolare Banditi a Orgoso lo si segnala per lo stile da neorealismo di provincia, neorealismo delle periferie, che da sempre contraddistingue il cinema di Vittorio De Seta, poeta delle realtà minori italiane e in particolare di quelle regioni che il cinema ha sempre comunque toccato poco. Il suo stile è asciutto, in tipica forma neorealista, ma si declina alle realtà dialettali e le mostra con preciso acume storico e al contempo antropologico. Grazie a Claudio Bartolini della redazione di Film TV, appuntamento alla prossima settimana. È arrivato il momento di ascoltare la terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. Tutti noi siamo quello che ci hanno insegnato ad essere. È una questione di educazione. Allora, mettiamo insieme le tracce. Vi abbiamo detto, prima abbiamo sentito un dialetto italiano che sembrava quasi serbo, ma non lo era. Poi abbiamo sentito una bambina che parlava di famiglia di contadini, di signori, di padroni. Adesso sentiamo un tedesco che parla in italiano con forte accento e poi gente che brinda in tedesco. Abbiamo detto un regista che è partito con il suo successo qualche anno fa da un film piccolo piccolo ed è diventato uno degli autori di punta del nuovo cinema d'autore italiano. Un cofanetto con cui giochiamo, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo e provate a vincere questo cofanetto. L'indirizzo è larosapurpurea@radio24.it per provare a vincere. Come hanno fatto invece Enzo Pietrini di Calci, provincia di Pisa, e Daniele Belsito di Presezzo, provincia di Bergamo, che hanno indovinato il film della scorsa settimana. Miseriaccia, ora che ci penso, ti serve una bacchetta, no? Sì. Ne ho una qui. È di Prugnolo. 25 centimetri. Niente di speciale. Può andare, credo. E allora la bacchetta era la terza traccia, ovviamente molti hanno a quel punto indovinato, ma avevano già indovinato prima, proprio come i nostri due ascoltatori vincenti. Si trattava di Harry Potter e i doni della morte, che esce in tante edizioni, come sempre splendidamente corredate da Warner Bros. Siamo in collegamento con Claudio Pofi per farci raccontare un po' questa edizione on video. Claudio. Ciao Franco, sì, saluto gli ascoltatori. Allora, questi ultimi due film della saga di Harry Potter sono, come dicevi tu, disponibili in on video in numerose edizioni DVD e Blu-ray, con I Doni della Morte parte prima e seconda venduti separatamente oppure in cofanetto. Il più prestigioso è sicuramente questo box da 6 Blu-ray con le versioni in alta definizione sia 2D che 3D, e ci sono due Blu-ray dedicati ai numerosi approfondimenti sulla lavorazione. Io su tutti, per gli extra, segnalo questa visione immagine nell'immagine del film con il retroscena della produzione. Ci sono interventi di cast e troupe, come al solito la traccia per l'italiano è la Dolby Digital multicanale, superiore a quella DTS ad alta risoluzione, cassata per la bassa resa stereofonica dalla stessa Warner. La versione 3D non passò nelle sale, quindi è disponibile in esclusiva per un video, però purtroppo il risultato non è sicuramente all'altezza di un'opera così importante come Harry Potter. E questo per quanto riguarda allora il game della scorsa settimana, appunto Harry Potter e i Doni della Morte. Cambiamo argomento, un film d'azione anche con venature poliziesche, la storia di due fratelli molto molto diversi tra loro nei I Padroni della Notte. Stiamo indagando su un certo Vadim Nijinsky. È stato dentro in Unione Sovietica per ricettazione, è arrivato qui nel 79. Spaccia eroina, cocaina, polvere d'angelo. Fa entrare un mucchio di roba, noi dobbiamo beccare tutto il giro. Opera dal locale che dirigi tu, il Caribe. Nell'America di fine anni 80, due fratelli di opposto carattere hanno preso strade diverse. Joe ha seguito le orme del padre Bort, diventando poliziotto. Bobby gestisce un locale notturno covo della mafia russa. In seguito al tentato omicidio di Joe e la successiva esecuzione del padre, Bobby unirà le forze col fratello per assicurare i criminali alla giustizia. Dallo stesso regista del noir Little Odessa, un'opera interessante anche se meno autoriale e sicuramente infarcita di stereotipi di genere, attori d'eccellenza tra cui Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix e Robert Duvall. Da BIM 01 Rai Cinema l'uscita del Blu-ray, sicuramente di buona resa, anche se con un limitato contrasto che sinceramente non ci si aspettava. DTS ad alta risoluzione italiano efficace, sicuramente migliore l'originale inglese. Come extra abbiamo il trailer. Ricordo che l'edizione americana ha in più tre focus sulla produzione e il commento del regista. E allora Claudio, andiamo avanti con un'altra e ultima segnalazione, un film d'animazione della scorsa stagione cinematografica, grandissima qualità proprio estetica, grafica, per questa storia di pappagalli in Brasile che si intitola Rio. Io non sono di aquí. Ehi Nico, è un turista. Strano, non lo sembri. Davvero? Non lo sembro? A parte che hai la cacca di piccione sul naso. Oh, no, è protezione solare 3000. Sei qui per il carnevale? No, in verità sono qui per conoscere una femmina. Oh, una femmina! Sì. Un piccolo consiglio, fa sempre tu la prima mossa. Le femmine brasiliane sono attratte dai maschi audaci. Oh, certo. Blu è un aramacao che ancora giovanissimo cade nelle mani di trafficanti in animali esotici. È salvato e adottato dalla piccola Linda, che vive in America. Intelligente e simpatico, ma sedentario e penuto, non ha mai in realtà imparato a volare. A sconvolgere la routine quotidiana di Blu e Linda ci sarà questo ornitologo che convince la coppia a seguirlo a Rio de Janeiro affinché il volatile possa accoppiarsi per proseguire la specie a rischio d'estinzione. Dai creatori di Ice Age, una commedia brillante, ricca di momenti musicali, con personaggi buffi, situazioni divertenti, Fox Home Entertainment ha prodotto una serie di edizioni home video tutte di qualità superlativa, ad eccellere sicuramente l'alta definizione, ma attenzione che l'edizione 3D non ha alcun extra eccetto un paio presenti nel DVD allegato. Per i numerosi approfondimenti sulla lavorazione occorre acquistare anche la versione Blu-ray 2D. Grazie Claudio, allora appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni in home video. Ciao, a presto. E abbiamo concluso la nostra corsa di questo fine settimana, la nostra ora di cinema si chiude qui, l'appuntamento è alla prossima settimana quando ancora arriveranno le ultime bordate dei film natalizi o forse le penultime, visto che poi ci sarà proprio il weekend di Natale, sabato e domenica 24 e 25, venerdì 23 arriva ancora qualche film e poi la battaglia sarà iniziata. Noi ci ritroviamo qui a Radio 24 con La Rosa Purpurea il sabato alle 18, la domenica per chi ci ascolta in replica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.